non devo abituarmi. Preparazione. Si continua a idealizzare, consapevole del fatto che ogni cosa può cambiare. Magari proprio quella che per te era mai una stella. Sei sicuro di passare dalla braccia alla tenda, perché vedi ciò che cerchi solo sotto i tuoi coperchi che ti coprono nuovamente. Così tu sei incosciente, vuoi uscire a idealizzare nella botola del mare. Riposino, respirazione, non dirci che merda la tua vita. Trova il tempo e cambia la tua vita. Non ti lasciare cambiare la tua vita. Trova il tempo e cambia la tua vita. Non ti lasciare cambiare la tua vita. Trova il tempo e cambia la tua vita. Non ti lasciare cambiare la tua vita. Trova il tempo e cambia la tua vita. Trova il tempo e cambia la tua vita. Allora, oggi come tutti i sabati vi farò ascoltare i brani più votati da voi durante la settimana, quindi questa più che una classifica, come già sapete, per chi non lo sa lo spiego ora, anche se non sono bravissimo a spiegare, ci proverò. E dicevo, più che una classifica è un sondaggio, proprio è un sondaggino. E difatti è il sondaggino di Gigi D'Agostino, e cioè rispecchia un po' il vostro stato d'animo del momento in cui votate, ovviamente, perché in quel momento lì, in base a come è stata, come vi sentite, a cosa vi è successo, o magari, e adesso basta, perché sennò poi dopo non c'è più spazio per la musica e non votate. Numero 20, titolo: Ragatanz, artista, la tana del suono. Storie devastanti, tremanti e violente che mi girano nel cuore e nella mente. E quindi io ci provo un po' così, provo a esplicarle così come mi vengono, e spero che voi possiate capirmi. E però la soluzione, continuerò a tratti la spiegazione alla fine di ogni canzone. Numero 19. Titolo: Passetto, artista, note storte. Pronuncio.

numero 15. Titolo: Don't cry tonight. Don't cry. Non piangere stanotte, capito? Artista Gigi D'Agostino, che è quello. Si fa per dire Spaghetti Trip. Accento la radio su F2O. mattino. La mattino, sua musica prende vita. Numero 12. Titolo: Non giochiamo. Artist. Dottor Dag. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Ginnastica mentale. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Ginnastica mentale. Ginnastica mentale. Il sondaggino di Gigi D'Agostino rispecchia un po' il vostro stato d'animo, il momento in cui votate, ovviamente. In quel momento preferite farvi accompagnare da un brano piuttosto che un altro. Insomma, la musica è un passaggio e noi la scegliamo per lasciarci trasportare in quei posti meravigliosi dove adoriamo stare. We'll be right back. Numero 9. Passo fuori. Artista. Lento violento Ci vediamo questa notte alla discoteca Essenza a Siena. Se volete maggiori informazioni potete andare sul sito www.gigidagostino.com oppure in forma abbreviata www.gigidag.com. Yeah. Grazie a tutte le persone che continuano a scrivermi per mandarmi un pensiero o per mandarmi la dedica. Grazie a tutti. Le dediche verranno mandate in onda durante la settimana, dal lunedì al venerdì, e vi ricordo il numero di telefono per mandare i vostri sms: 333 64 6 7 6 6 2. Se volete invece mandare la vostra dedica o un vostro pensiero per posta elettronica, via mail, l'indirizzo è gigi@gigidag.com. Pom pom parom parom pom. Numero 8. Titolo: Capriccio. Artista: Lento Violento Man. Tutto a posto. Bye.